Sabato 4. Sono contenta di aver avuto proprio in questi giorni la richiesta diretta della mia collaborazione. Facile e inoffensiva in apparenza la piccola azione che mi è stata richiesta, ma intuisco che su ben più profonde radici si viene ad innestare. È curioso. Non ho molta simpatia e profonda fiducia per quel signore che me l'ha offerta. Anzi, una volta diffidavo molto di lui. E ancora l'altra sera, quando in mezzo a quel buio cupo, appena punteggiato da piccoli bagliori, mi ha sussurrato che mi avrebbe aspettato presto, ho provato di nuovo quella vecchia puntura di diffidenza. È certo che ormai sento che non è più il momento di tergiversare. E poiché mi si è dischiuso lo spiraglio di un'azione, agirò. Non voglio avere il rimorso di aver esitato per qualcosa, che comunque potrebbe essere vigliaccheria.